Benvenuti a tutti, puntata numero 2 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 per Radio Big World. Entriamo nel merito della settimana immediatamente, malgrado oggi non credo sia esattamente la mia giornata più ispirata visto che ho già cancellato 20 registrazioni consecutive. Comunque, proviamo a raccontarla sta settimana. Iniziamo con i Cleveland Cavaliers, parliamo di loro, ne parliamo come lo squadrone della settimana. Prima partita questa settimana per Cleveland contro i Portland Trail Blazers. L'avete vista? Era su Sky. Se non l'avete vista potete rivederla grazie a Belly 13. Per andare a rivedervela vi consigliamo venerdì di entrare nel nostro blog medium.com/NBA Week, cercare l'ultimo post dove sarà riportato il podcasting di questa trasmissione e andarvi a rivedere tutti i video relativi a quello di cui vi parlerò, compreso il video di Belly 13 che vi indirizzerà direttamente al match completo tra Cleveland e Portland, tradotto in italiano ovviamente con il commento di Sky originale. Partita che si chiude 137-125, dalla parte di Portland ci sono 40 punti di Damian Lillard, dalla parte di Cleveland c'è un 31 punti, 10 rimbalzi e 13 assist di LeBron James, ma soprattutto c'è Kevin Love, è lui la nostra prestazione della settimana, il suo primo quarto contro Portland è la nostra prestazione della settimana. Infatti Love chiude con 34 punti, 11 su 14 dal campo e 8 su 10 da 3 punti. Il suo è un clinic di tiro inimitabile, tutta Cleveland lo cerca, lo sostiene, lo aiuta, LeBron soprattutto ecumenico gli serve un sacco di palloni, questo perché Kevin Love è totalmente in the zone, come dicono negli Stati Uniti d'America, cioè in una zona tutta sua dove ogni tiro entra senza nessun tipo di problema. Come ripeto, 34 punti nel primo quarto dei suoi 40 totali e partita a casa per i Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, squadra campione in carica e gioca, a mio avviso, in una maniera splendida, senza nessun tipo di pressione, senza quella pressione che è tipica di chi deve ripetersi. Talvolta gestisce il risultato, talvolta vince le partite già dal primo quarto. Le due partite seguenti sono esemplificative. La prima è quella contro i Dallas Mavericks. Si chiude 128-90 per i Cavaliers, ma probabilmente già a metà del primo quarto la partita è finita grazie a Kyrie Irving e alle sue triple. Ma malgrado questo, Cleveland per il secondo e il terzo quarto continua ad infierire con una foga che è tipica veramente delle grandissime squadre, di quelle che hanno sete di vittoria. Mavericks vengono distrutti in tutti i sensi, LeBron chiude con 19-11 assist, Kyrie Irving chiude con 25 punti, Kevin Love ancora con 27 punti e 10 rimbalzi, sta tenendo delle medie importantissime, molto vicine a quelle dei tempi in cui era l'uomo franchigia di Minnesota. Ottima prestazione anche da parte di Tristan Thompson, sia in questa partita che nella gara seguente. Una gara in cui i Cleveland Cavaliers mostrano a tutti come si gestisce una partita e come la si va a vincere di forza e imponendo la propria esperienza, anche e soprattutto la loro forza mentale. Philadelphia 76ers contro Cleveland Cavaliers, la partita di domenica. I Sixers la gestiscono e stanno avanti per tre quarti. Nel finale però rientra in campo LeBron James che chiuderà con un'ennesima tripla doppia e la partita va a finire. Va a finire come? Con tre splendidi assist che LeBron serve a Tristan Thompson. Tre splendide schiacciate in conseguenza, in seguito una penetrazione di forza di LeBron a canestro e lo strappo avviene, così che Cleveland si porta a casa la terza vittoria consecutiva all'interno di questa settimana. Ultima della settimana perché stanotte Cleveland invece è stata fermata, a Milwaukee grazie a 34 punti di Giannis. La partita si chiude 118-101 per i Milwaukee Bucks ed il parziale decisivo arriva proprio nel terzo quarto. Da lì in poi Cleveland non si riprende, non riesce a strappare nuovamente, a creare parziali a suo vantaggio, sicuramente un po' distratta, ma può permettersi anche di distrarsi ogni tanto, soprattutto perché in questo momento ha il miglior record della Eastern Conference ed è ovviamente la squadra più accreditata per arrivare in finale, almeno in questo momento, se si parla di East Coast. Andiamo avanti rapidamente e arriviamo al partitone della settimana. Non si tratta certo di un partitone di cartello, ed è quello tra Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers. Per prima cosa contiene al suo interno un evento molto curioso che ci permette di parlare di uno dei giocatori più interessanti di questo avvio di stagione. Per seconda questione, si tratta comunque di una partita che si concluderà dopo due tempi supplementari, quindi non è esattamente una partita di cartello, ma partita molto interessante. L'evento curioso avviene e capita a Joel Embiid, giocatore rookie dei Philadelphia 76ers, interessantissimo, giocatore veramente futuribile, potenziale protagonista della Lega per gli anni a venire. Joel Embiid è all'esordio nell'NBA dopo essere stato però prima scelta assoluta nel draft del 2014. Perché non ha giocato in questi due anni? Perché era infortunato. Per questa esatta ragione, Joel Embiid sta recuperando ed inserendosi all'interno dell'NBA con un minutaggio controllato voluto dai dottori. Questo per evitare ovviamente di sforzarlo troppo e per evitare chiarissime ricadute. Tra l'altro Philadelphia sta vivendo un'ennesima stagione piuttosto sfortunata. La prima scelta di quest'anno, Ben Simmons, come saprete benissimo, si è fratturato un piede in pre-season. Per cui Joel Embiid, la star, quello che tutti stanno seguendo, il giocatore del futuro, gioca al massimo 24 minuti per partita. Malgrado questo, tiene delle medie da rookie dell'anno: 18 punti, 8 rimbalzi e più di 2 stoppate di media. È un giocatore con un'eccessiva voglia di far bene, lo si vede quando gioca in campo, infatti molto spesso è portato a strafare. Malgrado questo, veramente interessante, futuribile, contro Memphis gioca una partita discreta, non è il protagonista in campo, suo malgrado, perché alla fine dei tempi regolamentari, con le due squadre in parità, il pallone è nella metà campo di attacco di Philadelphia. La palla arriva proprio nelle mani di Joel Embiid. Tenta il tiro della vittoria, probabilmente subisce fallo, secondo lui, viste le proteste, subisce fallo, non secondo gli arbitri. Il tiro esce dal canestro, parità, si va ai supplementari. Embiid gioca anche il primo tempo supplementare e la situazione del finale del primo tempo supplementare è analoga al finale dei tempi regolamentari. Di nuovo squadra in parità, di nuovo rimessa in mano ai Philadelphia 76ers, di nuovo palla Joel Embiid, stavolta raddoppiato, tira un piccione incredibile che non prende neanche il ferro, il tentativo proprio disperato di chiudere la gara, la palla come intuirete non entra e quindi si va al secondo tempo supplementare e qui avviene il fattaccio. Philadelphia in questo momento, dovete considerare, ha vinto due partite consecutive nelle due gare precedenti, contro i Phoenix Suns e contro i Miami Heat, quindi sta lottando per vincere la terza gara consecutiva, non male visto l'avvio della squadra, vista la stagione piuttosto sfortunata. Però il minutaggio di Joel Embiid è finito, non ha più tempo a disposizione e quindi è obbligato a sedersi in panchina, Philadelphia è obbligata a proseguire il supplementare senza la sua star. Questo non viene ben accettato da Joel Embiid, che al momento in cui si rende conto della questione si incazza come una iena, calcia di rabbia una sedia. Questa cosa viene ovviamente ripresa dalle telecamere, la potrete vedere in un video che è postato ovviamente nel nostro blog medium.com/NBA Week. Malgrado le proteste e l'incazzatura, consapevolmente si siede in panchina e vedrà i suoi compagni perdere, perché Memphis chiude la partita nel secondo supplementare grazie a Mark Gasol, che fa il protagonista della gara con 27 punti e quello che è il canestro decisivo con fallo a pochi minuti dalla fine. 25 punti anche per Conley, mister 153 milioni di dollari, che stanotte si è infortunato e probabilmente ha finito la sua stagione. In questa partita Embiid chiude con 12 punti, 11 rimbalzi in 27 minuti, quindi sforando anche un po' il limite di minutaggio massimo che gli è consentito. La sua voglia di far bene è dimostrata anche dalla rabbia che esprime con questo calcio ripreso in mondovisione alla sedia. Molto positivo, perché appunto il giocatore chiaramente dovrebbe essere già contento di essere in campo dopo due anni di attività. Ovviamente vuole anche vincere, ovviamente vuole anche giocarsela fino alla fine. Saprà benissimo che non può farlo, però comunque questo dimostra che c'è molta volontà di far bene all'interno della sua testa, e questo è importante, visto che comunque si parla anche di un personaggio un po' eccentrico da un punto di vista personale. D'altra parte è interessante vedere la disciplina di squadra di Philadelphia 76ers a livello di staff tecnico, cioè stiamo parlando di una squadra che è partita malissimo a livello di record, aveva vinto due partite prima di questa, poteva giocarsi la terza vittoria consecutiva, ma in nome del preservare e del non rischiare il suo talento più cristallino in questo momento in campo, si gioca la partita senza di lui nei 5 minuti decisivi e se la perde. Si tratta quindi di evitare i rischi eventuali. Meglio una partita persa che un eventuale sforzo fisico per la loro star primaria. Proseguiamo velocemente e arriviamo alla rimembranza della settimana. La rimembranza della settimana questa settimana è un libro ed è un bestseller tradotto in 14 lingue diverse. Si tratta di Bad as I Wanna Be di Dennis Rodman, Cattivo come voglio essere. È un libro che racconta perfettamente quello che è stato Dennis Rodman, una biografia, un'autobiografia più o meno, anche se In realtà credo che Rodman non abbia scritto una parola, lo scrittore è Tim Keon, Rodman probabilmente ha dettato. Comunque racconta molto bene, perfettamente, il Rodman pensiero. Come voi saprete, Dennis Rodman è uno dei personaggi più controversi della storia del basket. Eccentrico, provocatore, però capace di cambiare il gioco della pallacanestro negli anni 90. Lo ha portato veramente a un altro livello, tanto che persone come me, che sono fan e sono state fan di Dennis Rodman, hanno imparato a seguire quelle piccole cose che solitamente in una partita di basket NBA non si seguivano: la difesa, i rimbalzi, le provocazioni, il gioco sporco, quello che fa vincere le partite. Rodman non per nulla è uno dei giocatori, a mio avviso, più vincenti della storia dell'NBA, anche perché incarna all'interno della sua personalità la mentalità vincente di chi usa ogni mezzo possibile per arrivare al risultato finale, la vittoria. Il libro Bad as a Wannabe è bizzarro, è divertente. All'interno del libro Rodman parla veramente di tutto, parla anche della sua relazione amorosa con Madonna, critica le sue squadre precedenti, in particolare San Antonio Spurs, loda la sua squadra del cuore al momento del libro, si parla 95-96, quei Detroit Pistons definiti Bad Boys con cui Rodman vinse due titoli, e il libro si chiude proprio nel momento in cui Rodman decide di firmare per i Chicago Bulls, una cosa che gli porterà 3 titoli NBA e un posto nella leggenda e nella Hall of Fame. Dennis Rodman infatti chiude la sua carriera con 5 titoli di campione NBA, 2 con i Detroit Pistons, 3 con i Chicago Bulls. Vi leggo un passo brevemente di questo libro, un passo interessante per il semplice fatto che si parla di Greg Popovich. Greg Popovich, ai tempi general manager dei San Antonio Spurs, se avete seguito e conoscete un po' la storia di Dennis Rodman, a San Antonio non si trovò così tanto bene. Fu infatti poi ceduto ai Chicago Bulls dopo 2 stagioni fallimentari per gli Spurs, all'interno delle quali Rodman ebbe veramente tante cose da dire, sia con gli allenatori, il primo anno John Lucas, il secondo anno Bob Hill, sia con i giocatori e compagni di squadra, in particolare con David Robinson, che in quell'anno brillava tantissimo ma che poi, quando si arrivava a giocare le partite decisive, come dice Rodman in questo libro, spariva, e in particolare i problemi con Greg Popovich. Vi leggo questo passo e poi concludiamo. Il problema più grande a San Antonio era Greg Popovich, il general manager. Voleva fare l'allenatore e il general manager. Era sempre in mezzo e tutti i giorni prendeva la mano di Bob Hill dicendo: ok, ora devi fare questo, è ora che tu mi ascolti. Se Hill non lo faceva, Popovich gli faceva il culo. E così Hill si voltava e faceva il culo a qualcun altro. La merda scivola sempre verso il basso e sembrava che io fossi sempre sul fondo. A parte playoff non avevo grossi problemi con Bob Hill. Lui veniva usato esattamente come me. Popovich poteva essere quello che riusciva a domare Dennis Rodman e cercava di usare Bob Hill per fare il suo lavoro sporco. Questa era la grande sfida di Popovich. Mister Soldato stava facendo di me un bravo ragazzino, un bravo soldatino. Perse di vista tutto il resto e poi, quando si accorse che non poteva raggiungere i suoi obiettivi con il sottoscritto, parlò male di me e mi scambiò l'anno successivo per una miseria. Poi finse che era per il bene della squadra. Capisco che gli Spurs non avevano mantenuto il contratto che aveva firmato Detroit prima della stagione del 1990. Nessuno mi aveva convinto a firmarlo e si rivelò un pessimo affare. Non era colpa degli Spurs se il mercato era impazzito e io ero stato lasciato fuori al freddo. Ma niente di tutto ciò ha importanza, perché gli Spurs avevano detto che mi avrebbero dato 7 milioni di dollari all'anno e non mantennero la promessa. Avrei potuto sopravvivere se non avessero mai detto nulla riguardo al contratto, ma lo avevano fatto. Andai nel suo ufficio e Popovich mi disse: ci occuperemo di te. Poi andò dai giornalisti a dire che lui non aveva mai detto niente del genere e che non aveva mai sentito parlare di un nuovo contratto. Non saresti furibondo se il tuo capo ti trattasse così? Certo che lo saresti, chiunque lo sarebbe. Questa è una piccola parte, racconta l'atteggiamento di Popovich contro Dennis Rodman ai tempi in cui Popovich era il general manager di Dennis Rodman. Ci sono tantissime altre parti interessanti. Questa è curiosa perché Popovich oggi come oggi è considerato uno dei guru dell'NBA a livello di allenatori. È un allenatore vincente, ha costruito un sistema vincente e lo stava provando a costruire in quegli anni, scontrandosi per quelle 2 stagioni proprio contro il Rodman, che poi si racconta e che spara a zero a destra manca in Bad as a Wannabe, un libro che ovviamente vi consiglio di comprare, un libro che non so neanche quanto si trovi ancora in giro, però edito dalla Libreria dello Sport, un libro che nella versione italiana è stata tradotta da Tullio Lauro e Guido Guida. 2 parole su Tullio Lauro: una persona scomparsa troppo presto, un giornalista troppo poco spesso ricordato, un vero amante della pallacanestro che in Italia ci stiva anche uno dei due settimanali sull'NBA, mensili sull'NBA, che si compravano ai tempi, che si chiamava Magic Basket. Era un po' una sorta di Cioè della pallacanestro NBA, però era comunque un tentativo per avvicinare, e riusciva, per avvicinare i giovani alla pallacanestro NBA. Un ricordo quindi per Tullio Lauro, le parole di Rodman sono tradotte in questo libro soprattutto da lui. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo arrivati in modo faticoso. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro la prossima settimana di rimanere dentro il limite dei 15 minuti, credo che questa settimana non ci sia riuscito. Ci sentiamo tra 7 giorni su Radio Big World con la prossima puntata di NBA Week. A presto!